La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici purpure, questa è La Rosa, questo è il nostro spazio di cinema, su tutto il cinema che c'è in sala e non solo. 8 nuovi film sugli schermi cinematografici in questo fine settimana, qualcosa di molto interessante, di molto importante anche, ne abbiamo scelti 4 da raccontarvi. Allora cominciamo subito con il ritorno di un autore che si fa sempre apprezzare per il suo la sua capacità di essere interessante, divertente, introspettivo, partendo magari da situazioni di vita quotidiana. Stiamo parlando di Spike Jonze con il suo nuovo film Lei, la traduzione italiana di Her, il titolo originale. È un film molto particolare, la storia di un impiegato di una compagnia informatica che scrive lettere per conto di altri attraverso internet. È un uomo con un problema sentimentale, con un rapporto che si è concluso ma che lui non riesce del tutto a chiudere, e a un certo punto nel suo ufficio arriva un computer di nuova generazione, un sistema operativo con un'intelligenza artificiale dai tratti però molto molto umani. Il protagonista comincia a sviluppare con questa entità, che ha una voce femminile, nell'originale quella di Scarlett Johansson, vedremo anche nella versione italiana quella di Micaela Ramazzotti, che fra poco avremo nostra ospite, comincia a maturare un rapporto che va oltre quello di puro lavoro, un rapporto ovviamente del tutto virtuale. Com'era essere sposati? Non facile, questo è sicuro. Ma c'è qualcosa di molto bello nel condividere la tua vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Beh, siamo cresciuti insieme. Era Joaquin Phoenix, protagonista principale del film di Spike Jonze. Dicevamo quindi un universo femminile che non si vede, il regista si prende il lusso addirittura di non far vedere una dei più grandi sex symbol del cinema americano di oggi, quello di Scarlett Johansson. Boris Sollazzo è in collegamento con noi e lo voglio proprio coinvolgere nell'affrontare il tema, questo tema di lei. Ancora una volta Spike Jonze, Boris ha la capacità di far diventare una matrice, se vogliamo, cinematografica anche abbastanza quotidiana, quasi banale, qualcosa di memorabile nel suo approccio e forse anche nel suo risultato. Pienamente d'accordo, è qualcosa di straordinario come lui riesca ad entrare dentro mondi intimi diversi e altri, da lui ma da tutti noi, insomma, essere un sistema operativo è altrettanto difficile che essere John Malkovich, e farli diventare normalità, farli diventare qualcosa che senti addosso. In questo caso devo dire è pazzesco, perché chiaramente il punto di partenza è quasi al limite del ridicolo. Siamo in un futuro abbastanza prossimo, quest'uomo ha una sorta di posta del cuore, non è che la legge, la commenta sui giornali, ma anzi la scrive direttamente, una specie di Cyrano del futuro, e gli danno questo sistema operativo sperimentale per aiutarlo nel suo lavoro. Questo sistema operativo però evolve come un essere umano, e all'inizio temi il grottesco, temi che ci sia qualcosa in cui non entrerai mai. Alla fine, probabilmente grazie a Scarlett Johansson in originale, ma bisogna dirlo, visto che spesso siamo severi con i doppiatori italiani, anche grazie a una grandissima Micaela Ramazzotti, che sa benissimo interpretare, forse perché più che doppiatrice qui deve fare veramente l'attrice, cosa che sicuramente gli riesce molto meglio, alla fine tu pensi che forse innamorarsi di un sistema operativo, o come nel caso di Amy Adams, far sì che diventi il tuo migliore amico, non è così difficile, non è così strano, e questa è la più grande forza di Spike Jonze. Il resto è fare una delle più belle storie d'amore degli ultimi anni, appunto senza una scena di sesso propriamente detta, senza un bacio propriamente detto, e spezzarti il cuore a un certo punto senza che ci siano piatti che volano, urla o qualcosa del genere. Insomma, è qualcosa di, lasciatemelo dire, miracoloso, e uno dei più bei film di Spike Jonze. E allora andiamo a sentire Micaela Ramazzotti su questo lavoro che, come hai detto tu giustamente Boris, non è un lavoro da doppiatrice e basta, è più un lavoro da attrice a tutto tondo, da protagonista quasi di un film. Sentiamo. Un bel rischio, un rischio enorme, però la scommessa l'hai vinta tu. Dici? Sì, decisamente sì. Guarda, prima di Natale sono stata chiamata dalla BIM e mi hanno detto, guarda, devi venire a doppiare R, perché secondo noi sei l'unica che può fare questa cosa, questo progetto. Io avevo sentito parlare tantissimo di questo film, avevo letto tutto quello che era uscito durante il Festival di Roma, sapevo che era stato un lavoro molto difficile che aveva fatto Spike Jones con la Johansson, quindi ho pensato fatemi vedere il film, io mi devo innamorare di questo film. E mi hanno aperto il Quattro Fontane alle 12 e da sola, mi hanno chiuso dentro, poi mi sono venuta a riprendere, ero tipo in cassaforte dentro un cinema, da sola a mezzogiorno, e ho visto questo film. Dopo averlo visto ho detto sì, con molta incoscienza, però presa da quel sentimento lì, da quel trasporto, da quella magia, da quel film che racconta un grande senso di solitudine, dove c'è una grande... c'è un grande senso dell'estetica, della recitazione, del gusto, è molto anche molto struggente, è poetico, talmente poetico da mozzare il fiato, e perciò mi ha trasportato e mi ha portato poi a fare questo progetto. E allora era Micaela Ramazzotti, protagonista anche lei di Her, lei di Spike Jonze nei cinema italiani. Adesso cominciamo subito a giocare con la prima delle due clip di un film misterioso che dovete indovinare. Centro operativo? La ricevo. Qui è la Maersk Alabama. La nostra posizione è 2 gradi 2 primi nord e 49 gradi 19 primi est. Rotta 180, velocità 17 nodi. C'è un uomo, c'è una rotta, c'è una comunicazione. Se avete già indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo. Provate a vincere uno dei due Blu-ray di questo film che sono a vostra disposizione per i due ascoltatori che indovineranno prima degli altri. Più tardi vi faremo ascoltare anche un'altra clip. Adesso andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, un'altra figura di donna, anzi di due donne nel prossimo film di cui vogliamo parlarvi, che si intitola Ida, è il giorno dei nomi dei film al femminile con tre lettere, prima lei, adesso Ida, di Pavel Pawlikowski, un film di provenienza polacca, la storia di una donna che è alla soglia dei voti per diventare suora, siamo nella Polonia degli anni 60, vive in un convento, prima di ricevere appunto l'ordinazione vuole andare a trovare a Varsavia una zia, una vecchia zia alla quale è molto affezionata. Da questo incontro nasceranno delle rivelazioni devastanti per la vita di tutte e due le protagoniste, che si prenderanno letteralmente a braccetto e cercheranno di conoscersi e riconoscersi attraverso un tratto di strada comune. Sentiamo. Il suo nome è Wanda Gruss, è tua zia. Dovresti conoscerla prima di prendere i voti. Oggi mi gio. Sono tua nipote. So che sei. Sei una suora ebrea, non te l'hanno detto? E non ti hanno detto chi sono, che cosa faccio? Hai idea dell'effetto che fai sugli uomini? Chi sei tu veramente? Una donna che ha condannato a morte degli uomini. È un peccato. Non dovresti tagliare i tuoi capelli. Grandi verità, Boris, grandi situazioni storiche di quelle con la S maiuscola che esplodono dentro l'anima di queste due protagoniste. Ti faccio una domanda provocatoria. Ida è un film che ha avuto un successo clamoroso di critica un po' in tutto il mondo. Possiamo dire che la Polonia ha trovato l'erede di Krzysztof Kieslowski per una certa modalità espressiva? No, non credo che sia affatto provocatoria la domanda, perché io ho pensato esattamente la stessa cosa. Non è il primo film che mi dà questa impressione, ma è sicuramente il film che fotografa benissimo questa eredità. Lui non mi sembra negarla, nella figura di queste due donne completamente diverse fa qualcosa che non è molto dissimile anche dall'incontro che c'è in Filomena, cioè tra un laico e un non so, o tra un laico e una futura suora, che però si rivelerà molto più incerta. certa. È una grande storia femminile, è una grande storia con la S maiuscola, è grande cinema in bianco e nero che racconta quanto possa essere difficile nella sfera intima una tragedia collettiva come la guerra. Non dico di più perché è davvero un film da scoprire in tutte le sue bellezze, sia artistiche, sia contenutistiche, sia anche di riflesso personale su ogni spettatore. E l'abbiamo detto che è una settimana anche pregnante in termini di qualità cinematografica, lo è anche grazie a un film per il quale ci si diverte. Vedete, chiaramente il cinema ci sposta da un'aria all'altra, da un genere all'altro, e adesso parliamo di un film d'animazione, Mr. Peabody e Sherman. Ve ne sarete sicuramente accorti che stava arrivando, perché praticamente ci sono le città totalmente tappezzate da questi simpatici personaggi. Il film è diretto da Rob Minkoff ed è la storia di un cane davvero pieno di poteri, quasi un supereroe cane, a partire da un intelletto davvero superiore, ma che di fatto si rivela un grandissimo scienziato. Ovviamente non potrà mancare il rapporto con un bambino, che in questo caso viene adottato dal cane. Questa è un po' la singolarità di Mr. Peabody e Sherman. Si chiama Torni Indietro, è una macchina del tempo. Wow! Ora che l'abbiamo vista, forse dovremo tornare indietro. No. Sherman, Penny, perché siete vestiti come due antichi greci? L'ho persa nell'antico Egitto. L'ho sfidato Tutankhamon, poi è finita la benzina. A Troia! Hai usato il torni indietro? Sì. Avete usato la macchina impropriamente. Dobbiamo riscrivere in ordine la storia per salvare l'universo. Abbiamo rotto la struttura del continuo spazio-temporale! Sembra che il passato venga verso di noi! E allora, questi momenti, alcuni momenti di Mr. Peabody e Sherman, Boris, un'animazione che comunque, come dire, anche in questo caso riesce a coinvolgere la famiglia con questo aspetto, se vogliamo, originale, quello della, stavolta, dell'animale che adotta la figura antropomorfa del film, ovvero il bambino. Ma noi qui alla Rosa Purpura l'abbiamo detto da tempo che l'animazione si era di nuovo rivolta a una settorializzazione, cioè erano tornati i film per bambini, quelli che sopra i 6-7 anni ti annoiano. Peabody e Sherman è esattamente quello, è un film quasi pedagogico, perché il cane è anche un punto di riferimento morale, intellettuale, si viaggia nel tempo e quindi si studia anche un po' di storia antica, ci si diverte, consolatorio. Non è affatto male, certo è che vi consiglio di andarlo a vedere solo se avete dei bambini molto piccoli. Ecco, questo infatti è un'importante precisazione di target, giusto perché animazione è una parola molto ampia che contiene tantissimo. Nel film, avete forse anche intuito nella clip che vi abbiamo fatto sentire, la voce italiana del cane, insomma, è quella di Massimo Lopez, il che, come sentirete nella piccola chiacchierata con Boris Sollazzo, si presta anche a qualche ironia. Massimo, questa volta non ti darà fastidio se qualcuno dirà che sei un attore cane? Sì, chiariamolo bene questo fatto, perché sono in effetti un attore cane, nel senso sono non un cane attore, un attore cane nel senso che doppio questo, do la voce a un cane nel film Mr. Peabody, no? E Mr. Peabody e Sherman in uscita, e è stata un'esperienza divertente perché è curioso questo cane, che uno si aspetterebbe il cane che viene coccolato dal padroncino umano, mentre invece è il contrario, perché è un cane che adotta un bambino, e c'è tutto questo cane scienziato, professore, che porterà, è premio Nobel anche, che porterà questo bambino in viaggio nel tempo, facendogli percorrere, andando nei periodi storici più importanti, dalla rivoluzione francese all'antico Egitto, all'antica Grecia, insomma con tutte le avventure poi che seguiranno. Per un attore come te, che ha sempre usato la voce al di là di tutto il resto come uno strumento musicale raffinatissimo, uno strumento in generale di interpretazione, quanto può essere divertente ricostruire un personaggio a partire solo da quella? È proprio il gioco mio preferito. Diciamo che in questo caso la voce è proprio la mia, perché abbiamo dato una dato una voce molto, molto professorale, quindi quasi in contrasto con l'immagine, ma essendo proprio dotto lui così. Però il gioco è proprio quello, mi diverte molto doppiare i personaggi, soprattutto nell'animazione, mi diverte proprio giocare, caratterizzare, proprio quello che ho sempre fatto sin da quando avevo 2 anni. E allora Massimo Lopez alla Rosa Purpura per raccontarci il suo approccio e il suo apporto anche a Mr. Peabody e Sherman nei cinema italiani. Giochiamo ancora insieme, seconda clip del nostro film misterioso di oggi. 4 pirati a bordo, 4 pirati vengono verso di noi dal ponte principale. Chiudi a chiave la plancia. Sì. Ascoltate, siamo stati abbordati da 4 pirati armati. Sapete cosa fare? Allora, voi sapete cosa fare, anzi sapete che film è, di che film si tratta. La Rosa Purpurea, @radio24.it, scrivetecelo con il vostro indirizzo privato per agevolare poi le operazioni di spedizione del Blu-ray di questo film. 2 copie per i 2 ascoltatori che prima di tutti riusciranno ad aver indovinato questo film. Voglio anche dirvi che abbiamo, la metteremo online fra poco sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea, @radio24, cercatela e cliccate mi piace. Abbiamo la classifica definitiva del nostro gioco sul cofanetto Truffaut, che è durato per le scorse 3 settimane, con una simpatica appendice. Ci sono 2 nostri ascoltatori che sono a pari punti in testa alla classifica, a 9 punti per la precisione, e sono esattamente Gennaro Guarignello e Moreno Mauri. E allora noi in settimana, adesso lo scriveremo anche sulla nostra pagina, cercheremo di vedere se riusciamo a spuntare un secondo cofanetto da regalare a entrambi, o se invece faremo uno spareggio la settimana prossima. Quindi preparate su Truffaut, perché forse non è ancora finita. Adesso parliamo di Supercondria, con l'ultimo dei film che vogliamo affrontare questa settimana, una commedia francese con Danny Boone, con Kad Merad, sono 2 degli attori che hanno veramente devastato anche di incassi la commedia francese degli ultimi anni. È un film veramente molto divertente, sentiamo questa clip. Non vedo niente. Nemmeno io. Non vi è nulla di anomalo a priori. Non capisco. Sì, guardi qua, c'è una macchia qua, guardi. Dov'è la macchia? Qui in basso al polmone sinistro, è grossa, molto preoccupante. Questa non è una macchia, questa. Questa è la parte bassa del diaframma. Beh, si compri gli occhiali, merda. Come si permette? Cambitone, lei è il dottor Chi, mi perdoni? Ah, no, no, io non sono un dottore. Cazzo, è un paziente. Ma sì, è evidente, un paziente. Che ci fa qua? Sono io sulle foto qua. Ero disteso nella stanza accanto, ho sentito che mi riguardava, mi sono unito a voi. Ma io la riconosco, non è la prima volta che viene. È sempre malato. Ma appunto per questo sono qua, perché sono molto malato. Fuori di qua. Aspetti. Se ne vada! Sbattetelo fuori! Via! Non mi toccate! Mettetevi nei guanti! Un rapporto molto controverso fra un medico e questo paziente supercondriaco, cioè ipercondriaco alla ennesima potenza. Ha paura di tutto, sostanzialmente, di toccare cose, di toccare persone. E questo chiaramente dà origine a molte situazioni comiche. Ma Boris, la cosa che mi è piaciuta veramente tanto di questo nuovo film di Danny Boone, che qui dirige, interpreta, scrive, e ricordiamolo, è l'autore di Giù al Nord, è stata una riflessione forse anche un po' amara che ho fatto alla fine della proiezione. Cioè, questo in Francia è cinema estremamente popolare, ma è fatto con la qualità del cinema con la C maiuscola, cosa che in Italia non riesce. Cioè, o il film è proprio popolare, stile cinema panettone, ma senza ricerca di una qualità cinematografica, o altrimenti è un film che vuole tendere alla commedia d'autore, ma magari non ci riesce. Sì, devo dire che forse l'unico che mi viene in mente che potrebbe essere il Boone italiano è Paolo Genovese. Una famiglia perfetta e Maturi si avvicinano a quel tipo di qualità e a quel tipo di voglia di non è di far diventare la leggerezza qualcosa di soave, non necessariamente volgare o ruvido. Detto questo, Supercondriaco è la dimostrazione di quanto sia furbo Danny Boone, perché sa sempre individuare le malattie sociali più importanti. Una è il razzismo, campanilismo, come era Giù al Nord, adesso è l'essere ipocondriaci, che è una delle manie maggiori nella società attuale, e questo gli porta il pubblico. E il resto, come dici tu, è un ottimo cast, c'è ancora Kad Merad, ma ci sono tanti altri attori di livello, una scrittura solidissima, blindata, diciamo, le battute sono proprio a orologeria, e una capacità comunque di suonare questo film come se fosse una canzone, con la stessa capacità di mettere i ritmi e gli accenti gente al posto giusto. Non siamo di fronte a un capolavoro, ma siamo di fronte a qualcosa che vi farà ridere. Cioè, andrete al cinema e uscirete ridendo e ripetendo anche due o tre delle battute. Ditemi se poco. No, non è assolutamente poco. Grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora le crudeli note della nostra sigla ci dicono che siamo già in chiusura di questa nostra puntata. Io però voglio ricordare che il game della settimana scorsa era Sacro Gra, che hanno vinto il DVD Vito Miraglia di Matera e Rosario Alia di Giarre, provincia di Catania, e che settimana prossima con Giulio San Giorgio recensiremo anche questo DVD, che era appunto il game di settimana scorsa. Per ora è davvero tutto, un saluto da Franco D'Assisti.